E questa parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro è piena di insegnamenti, ma io ve ne voglio ricavare uno solo, che c'è l'inferno e c'è il paradiso. È chiaro? La parabola dice di sì, ma per noi non è chiaro. È così poco chiaro che noi non lo diciamo più ai nostri figli. I nostri ragazzi sanno che esiste il paradiso e l'inferno e noi adulti ce lo ricordiamo che esiste il paradiso e l'inferno. E guardate che l'insegnamento di questo dannato che dice mandate a avvisare i miei fratelli, siamo noi che dobbiamo avvisare i nostri fratelli, siamo noi che dobbiamo avvisare i nostri nipoti. E certamente se voi nonne lo farete, le vostre nuore o i vostri figli vi salteranno in testa. Ma mamma, ma signora, ma sono cose da dire ai nostri bambini. Ma cioè io veramente ho detto il Vangelo, prendetevela con Gesù, purché evitiate un errore, care mamme, care nonne, di mandare voi all'inferno e in paradiso la gente. Guardatevi bene dal dire a tuo nipote, se fai così vai all'inferno. E che? Tu sei Dio? Hai deciso tu chi va all'inferno e chi va in paradiso? Non permettetevi di dirlo mai. Questo che fa arrabbiare. Noi dobbiamo semplicemente dire che l'inferno e il paradiso sono la fotocopia della vita. Perché l'inferno e il paradiso ci sono anche nella vita. Il premio e il castigo. Hai studiato? Promosso o bocciato? Ti comporti bene sul lavoro o rubi? Assunto o licenziato? Ti sei allenato bene nello sport? Fai il record oppure finisci in fondo? Nella vita. Il premio e il castigo ci sono di già. Basterebbe far capire che questo vale anche nella vita spirituale. Il premio e il castigo si chiamano paradiso e inferno. Però voi non siete quelli che devono bocciare o promuovere. Se notate, io che vi parlo di queste cose, non mi permetto mai di dire a nessuno guarda che andrai all'inferno. No, questo non voglio sostituirmi a Dio. Ci penserà Dio. Io ti avviso solamente, guarda che è possibile prendere la strada comoda che porta all'inferno, la strada più faticosa ma bella che ti porta ai panorami bellissimi del paradiso.